A tempo di sport con Carlo Genta. Buongiorno a tutti, tutti vogliono il mercato e allora che mercato sia, con tutti i crismi, il Milan stoppato dal fiscalista va su obiettivi diversi e minori rispetto a Kakà. Carlo Laudisa, Gazzetta dello Sport, ciao Carlo. Oh, ciao, ciao a tutti. Cosa ha detto di preciso quel fiscalista? Ma un'ovvietà per i fiscalisti, nel senso che lo si sapeva da tempo che il fisco spagnolo, che fino a qualche tempo fa era molto generoso perché con la cosiddetta legge Beckham concedeva il 24% di tasse a chi come Kakà era arrivato entro un lasso di tempo, in caso di prestito al Milan, al suo eventuale rientro a Madrid avrebbe perso quel beneficio. Questa è stata la sentenza del luminare spagnolo. Sì. Ma un pizzico di ironia, io credo che il Milan questo lo sapesse già da tempo. Sì, certo. Questa è una pezza a colore per uscire allo scoperto con Kakà e per evidentemente uscire anche di scena. Perché? Perché questo messaggio in realtà non era al Real Madrid, bensì a Kakà, che aveva già dato la disponibilità a ridursi lo stipendio per una sola stagione, ma nell'ottica di un acquisto definitivo non aveva espresso la stessa positività per ridurselo per gli altri anni successivi. Ricordiamolo, Kakà adesso guadagna 10 milioni netti al Real Madrid. Sì, certo. Uno stipendio impossibile per il Milan, ma anche per tutte le altre. Italiano. Ma anche, ecco, per tutte le altre. Appunto. E quindi diciamo che questa uscita di Gagliani è servita un po' a sparigliare quel campo. Io, come ho scritto nel pezzo pubblicato sulla Gazzetta, ho posto una sorta di deadline proprio per oggi, nel senso che o avviene davvero un messaggio da Kakà in senso positivo verso una riduzione completa, che è difficile, oppure godiamoci Bojan. Godiamoci Bojan, che sta nella notte è arrivato Niang, di cui sì, conosciamo pochino in realtà. Beh, quindi sappiamo che è un prospetto, come sì, si dice ultimamente, è di moda, perché nel Caen ha fatto molto bene, ha già segnato nella prima divisione francese e quindi questo la dice lunga sulla sua precocità. Poi vedremo se alle speranze seguiranno i fatti. Certo, e Bojan arriverà. Sì, è in arrivo. È in arrivo, pronto a firmare. Stamattina c'è stato un incontro in sede al Milan con Walter Sabatini, che è il direttore sportivo della Roma, che ricordiamolo era titolare del prestito del talento catalano, di cui è appunto titolare del cartellino il Barcellona. Sì. Per cui è un triangolo per un ulteriore prestito. Diciamo che il Milan eredita il prestito di cui usufruiva la Roma. Milan che fa la questua dunque. 800 24 00 24, se volete intervenire. Continuo a pensare che all'Inter, ma lo sanno benissimo anche perché ci stanno provando, all'Inter serve un vice Milito. Leggo di Floccari che potrebbe sì, però andare al Bologna. Certo è che una punta per i giorni freddi, quando magari verrà raffreddore, al Principe servirebbe. A sentire ieri i manager di Palazzo Saras, il punto Stramaccioni ieri ha sentenziato: possiamo star bene anche così. Però è bene diffidare, perché anche l'Inter in questa fase sta cercando un prestito, non spendere per questa operazione, o meglio cerca di spendere il meno possibile. Sì. Quindi c'era stato ieri un contatto con il Genoa, che aveva proposto uno scambio con Girardino, tra Girardino e Coutinho, o in alternativa con Alvarez, ma l'Inter ha detto no. C'era stato un po' parlare con Borriello, anche questo un po' naufragato. Ecco perché torna il discorso di Floccari, vedremo. Non è detto che l'Inter faccia effettivamente qualcosa, dipenderà sì, da quello che il mercato offrirà. Sì, io continuo a ripetere, l'ho detto ieri, lo ripeto anche oggi, che se avessi dei quattrini, cosa che non ho, e se fossi un dirigente di una squadra importante, il giocatore in questo momento in Europa che prenderei si chiama Jovetic. Ah beh sì, però la Fiorentina ha tenuto duro, perché ieri la Juventus si è ripresentata attraverso Raffani, l'agente di Jovetic, ma la risposta è stata secca, anche perché dietro l'angolo cosa c'era? C'era questa scrittura privata che in effetti impegnava la Fiorentina a cederlo sulla base di 32 milioni, ma non è un documento legale, quindi non è impegnativo per la Fiorentina. Sì. Ecco perché c'è stato un po' un gioco delle parti, nel senso che la Fiorentina ha lasciato intendere chiaramente che se poi Jovetic ci volesse rivalersi avrebbe possibilità di farlo solo in sede civile, non in sede sportiva. E questo chiaramente a 3 giorni ormai dalla fine del mercato rende impossibile un addio di Jovetic alla Fiorentina, vista anche la determinazione della famiglia del Valle, che non ha mai avuto idea di cederlo. Tra l'altro ieri invece è stato ceduto Nastasic al City, no? Per 12 milioni in cambio di Savic. Questo è un altro bella scoperta. Corvino l'aveva scovato in Serbia e aveva fatto vedere cose molto belle, e non a caso Mancini, che di calcio ne capisce, lo abbiamo visto, se lo ha accaparrato, visto che non è riuscito a mettere le mani né su Thiago Silva né su Javi Martinez, che è diretto al Bayern Monaco, e quindi si accontenta fra virgolette di un altro giovane che temo diventerà un big in Premier League. Tra poco comincio a parlare con gli ascoltatori, Umberto da Padova, Mario da Cremona, i primi 800 24 00 24, ma prima chiudo con Carlo Laudisa su Del Piero, che a quanto pare andrà a giocare con Gattuso al Sion. Posso dirti una cosa? Io mi aspettavo che, insomma, per Del Piero trovare una collocazione fosse più semplice, magari negli Stati Uniti, magari in qualche continente o in qualche luogo da esplorare, lui uomo così intelligente e curioso. Io credo che però Del Piero, che gli sta intorno, abbia fatto anche una scelta economica chiara, perché i contatti non sono mancati, soprattutto nei paesi arabi. Sì. Le sue richieste però evidentemente non collimano con le aspettative di quel mercato. La verità è che, a mio vedere, Del Piero, vista anche l'età, rimane un mito per il nostro mondo. La sua immagine è splendida, perché comunque, oltre che per il suo gesto in campo, sicuramente la sua è una carriera esemplare da tutti i punti di vista, ma credo che questa vicenda ci dimostri che non avesse tutta questa vetrina internazionale che noi giustamente gli dedichiamo in Italia. Senti, ma davvero Rune è in vendita, come leggo sul sito della Gazzetta? Ma credo che, ora non ho visto, credo che si riporti qualche tabloid in inglese. Vabbè, la realtà, siamo tutti d'accordo. La realtà è che Rune intanto è infortunato, quindi matematicamente fuori dal mercato. Non penso comunque che qualche scricchiolio che sicuramente è avvenuto porti a una separazione così traumatica, anche perché lo United, per reggere la competitività con il City, non può impoverirsi dopo aver preso Van Persie. 800 24 00 24 per parlare con noi o per scriverci messaggi SMS 349 238 6666. Tra un po' vi faccio sentire anche qualche voce di vigilia per quanto riguarda l'Udinese, ad esempio, che aspetta la grande notte, come ha detto Guidolin, contro il Braga. Questa sera si parte dall'1-1, l'avversario è serio. Ma guardate, l'Udinese, secondo me, più che altro per la sua storia recente, questa partecipazione alla Champions League vera la meriterebbe assolutamente. Umberto da Padova, buongiorno. Buongiorno, niente, io volevo chiamare ieri perché ascoltavo, non sono riuscito a capire tutto il discorso del calcio scommesse che faceva il suo ospite. Calcio scommesse quale? Cioè, io sono juventino, diciamo, il discorso di Conte, della sentenza, di cose varie. Io ieri mattina ho ascoltato sulla Rai che avete intervenuto dicendo che si devono accettare le sentenze e non fare in poche parole commenti. Poi io penso che anche Abete deve dire che i giudici non possono dire a una radio spiegare la sentenza, cioè se sono giudici devono tenerselo per loro, sì. Non viene fuori. E poi Petrucci fa un commento anche lui non tanto bello, dicendo che Zeman ha ragione. Cioè, allora a questo punto come deve stare zitto Conte? Sì, dovrebbero, ma guardi, dovrebbero star zitti un po' tutti loro signori. Cioè, perché penso che non è bello, cioè, io se sono accusato ho anche l'opportunità di difendermi, perché penso che non dico solo di Conte, io vedo anche i giocatori che si incatenano davanti alla federazione, penso che un ragazzo di 32 anni deve incatenarsi vicino alla federazione così tanto per farlo sia sbagliato. Cioè uno pensa che anche un ragazzo che gioca a calcio è un lavoro che fa. Ma lasciamo stare le catene, torniamo alle parole che appunto tutti i loro signori potevano risparmiarsi. Tra l'altro oggi Abete mi pare abbia detto qualcos'altro in proposito, cioè le sentenze si possono criticare, sentiamolo. Si possono tranquillamente criticare delle sentenze, come si criticano delle sentenze dei tribunali o delle corti di appello, si possono ovviamente a maggior ragione criticare quelle che sono delle decisioni della giustizia sportiva. L'importante è che risulti chiaro che viene rispettata la funzione di giustizia, che la funzione di giustizia è fondamentale anche nel sistema sportivo. Dopodiché noi sappiamo che l'ordinamento statuale è diverso rispetto all'ordinamento sportivo. E manca un pezzo, cioè quello in cui si dovrebbe aggiungere che l'ordinamento sportivo andrebbe riformato, ma questa è un'altra storia che abbiamo già affrontato, lunga e un po' pallosa in realtà. Mario da Cremona, anche se molto attuale. Mario. Sì, salve, sono Mario da Cremona, io sono un tifoso milanista un po' datato, ho 65 anni e spero che il nostro diavolo quest'anno, nonostante le partenze, faccia ancora qualcosa di buono. Io volevo chiedere, ho molta fiducia nei giovani, mi fa piacere che il Milan abbia scelto questo ragazzo qua, pieno Niang. Di speranze, molto talentuoso, sì, però, eccetera. Però i giovani devono essere bravi, perché esatto. Non basta, si fa molta demagogia sui giovani, basta che uno sia giovane, diciamo, deve giocare, ci sono infatti, quelli bravi e quelli che invece infatti, no. Infatti il tanto declamato Beretta, che era considerato il miglior giovane che avevamo in Italia, che fine ha fatto? Non so io. Non le so rispondere Mario, non lo so, molti giovani si perdono per strada, adesso sono molto in voga Destro, Insigne eccetera, che sembra abbiano eccellenti qualità, però ripeto, io voglio vederli alla controprova di un campionato ad alto livello eccetera eccetera, perché da noi si fa troppo presto a dire giovani, li vogliamo in campo eccetera, salvo poi quando non arrivano i risultati o quando i giovani non si rivelano all'altezza, aprire il tappo delle critiche. Quindi giovani sì, ma quelli buoni. Ernesto dalla provincia di Napoli. Buongiorno. Buongiorno. Io sono un po', diciamo, in controtendenza rispetto a quello che diceva Abete ieri nel corso della già richiamata intervista del mattino sulla Rai. Abete era convinto del fatto che i giudici di linea o di porta, come vogliamo definirli, avessero svolto in maniera accettabile o comunque decente il loro mestiere. Devo dire che io non sono per niente d'accordo. Anche da tifoso del Napoli c'era un rigore enorme per il Palermo sull'1-0 per il Napoli, così come i gol della Juve, il rigore per la Juve e poi quel gol dato, così insomma. A mio avviso, i giudici di linea, gli arbitri, come vogliamo chiamarli, hanno avuto un influsso non proprio positivo sull'andamento delle due gare. Sì. Poi. Sì, no, Ernesto, però conosciamo questa polemica che ormai viaggia sul filo Napoli-Torino e che credo durerà a lungo. I giudici di porta, a parte il fatto che ci vorrà un po' di tempo, secondo me, per prendere le misure, assestarsi, distribuire i compiti, eccetera, eccetera, eccetera. Però comunque qualche risultato si è visto. Ad esempio il gol di Pirlo, a lei non sarà piaciuto, però era gol e senza giudice di porta avremmo visto mille immagini senza capire nulla. Molto bravo in quel caso, perché bisogna anche dire quando gli arbitri sono bravi. Walter da Teramo e poi sentiamo un po' di voci. Salve, buongiorno e complimenti buongiorno. Per la trasmissione. Io volevo intervenire, sono un tifosissimo del Pescara, sì. Volevo intervenire però sull'affare Jovetic. Mi chiedo, abbiamo lasciato scappare un talento come Verratti per pochi milioni di euro, scappare dall'Italia. Pochi relativamente. Pochi perché c'era stata un'offerta della Juve, poi con prestiti, dilazioni, sì, eccetera. Sì, però Walter, mi perdoni, sì. Mi sembra una dozzina, no? Mi sembra una dozzina di milioni di euro, se non di più, per Verratti ha pagato Paris Saint-Germain. 13, perfetto. Anche in questo caso, ottimo prospetto, reduce da una splendida stagione in Serie B, quei soldi non mi sembrano un pugno di noccioline, onestamente, perché, ripeto, bisogna sempre fare la tara. Giovani sì, probabilmente anche un giovane molto bravo, però non è che sia stato pagato poco. Ma mi chiedo, come fa la Juve ad offrire 32 milioni di euro per Jovetic? Ma ancora di più, come fa la Fiorentina a non accettare una proposta del genere? Vorrà vincere lo scudetto? No, probabilmente ha la possibilità di tenersi di suo fuoriclasse, e se ne ha la possibilità fa benissimo. D'altra parte, se ne chiedono 37 per questo Llorente, poi andiamo anche in Spagna, e poi, visto che c'è un messaggio, parleremo anche di basket, per chiudere, perché sennò tutto calcio mi sfinisce. Ebbene, se chiedono questi 36-37 milioni per questo Llorente, che io non credo, vista l'età, anche se siamo sui 28 anni, sia un giocatore in grado di cambiare la faccia di una squadra, soprattutto a livello europeo, beh, io prendo subito Jovetic per 32. Se poi la Fiorentina ha la possibilità di resistere a questa offerta, ben per i tifosi viola, perché Jovetic è un giocatore meraviglioso, anche se da valutare dal punto di vista fisico, anche se ancora in crescita, ma questo è un plus, naturalmente, anche se si diceva l'altro giorno con Marco Ansaldo, da verificare la sua capacità di resistenza al dolore, di giocare quando magari non è in perfette condizioni, perché anche su questo ci sono dei dubbi, però insomma siamo lì a spulciare. Si tratta, secondo me, di un super giocatore che alla fine, anche lì torniamo al discorso di Walter, quei soldi li vale, bah, insomma, quei soldi secondo me non li vale nessuno, però insomma è un giocatore che ha una quotazione giustamente elevata. Prima di Massimo D'Aosta, Guidolin, quasi in lacrime di emozione per la partita che aspetta stasera la sua Udinese. È la partita più importante della mia vita, ed è proprio come dici tu, cioè per me sarà l'ultima volta, quindi non c'è altro da aggiungere. Beh, quasi in lacrime. In lacrime e basta. Ce la fa secondo voi l'Udinese? 800 24 00 24. Secondo me sì, fate pure gli scongiuri, ma ti farò con la bandiera in mano questa sera per i friulani. Massimo, anche lei? Buongiorno, certo, anche se sono tifoso juventino, ma... Beh, quindi non deve neanche cambiare colori, colori sono gli stessi. Insomma. Dipende con che maglia gioca stasera l'Udinese. Sì. Però no, veramente un grosso in bocca al lupo, perché se lo meritano tutto. È una squadra bellissima, anche come società, e speriamo in bene. Senta, la mia domanda era più che altro così, un suo parere... Visto che la Juventus è alla ricerca di questo famoso top player centravanti, vi dicendo. Ma serve così tanto? Serve davvero? Uno serve, due, ma perché non tenersi Ciro Immobile così, tanto per far crescere un giovincello dalle buone speranze? Sembra quasi che stia antipatico alla stessa società, perché se non sbaglio l'ha girato al Genova, ma... ne ha venduto la metà, quindi rischia di farlo stesso giochino poi di Giovinco, che lo va a strapagare. Sì, no, questo non so quali siano state le valutazioni della Juventus. Certo, oggi Ciro Immobile, torniamo al discorso del buon prospetto, non è certamente un top player, no. Certamente non ti puoi riempire la bocca con questo nome, ma io non sono, cioè il discorso è che non c'è oggi sul mercato un giocatore in grado di trasformare la Juventus in una squadra al massimo livello europeo. È già, secondo me, ampiamente la più forte squadra italiana, ma ha comunque un reparto offensivo che è completo, anche se non capisco come mai, ma Matri sembra un po' caduto in disgrazia. Non sono così convinto che un top player possa servire alla Juventus. Certamente, se questo fosse Jovetic, appunto, che è incedibile, o se fosse ipotesi Cavani, allora diventa un altro discorso. Ma anche questi sono giocatori che non permetterebbero istantaneamente alla Juventus di fare il balzo di competitività in Europa. E ripeto, in Italia è già ampiamente la più forte, a parer mio. Claudio, provincia di Isernia. Claudio, provincia di Isernia, dopo magari. Intanto restiamo in campo Udinese, sentiamo Domizzi che non piange come Guidolin. Anche forse. Per me sinceramente vale un po' lo stesso discorso del mister, nel senso che può essere una partita che oltre a cambiare la stagione a noi, inteso come squadra e allenatore e a tutto l'ambiente, a tutta la società, per me personalmente mi cambierebbe anche un po', senza esagerare, anche un po' la carriera, nel senso che non ho mai partecipato a questa competizione, quindi sicuramente sarebbe un motivo di lustro, di orgoglio poterlo fare. Questo era Domizzi, vediamo se è tornato Claudio dalla provincia di Isernia. No, non è tornato, ma lo ripescheremo. Allora, andiamo su un'altra voce, che è quella di Gargano, e scopriamo come il mondo del calcio sia pieno di tifosi interisti. Non solo Cassano, ma anche dal lontano Uruguay e poi da Napoli, Gargano. Stamattina è stato presentato, sentite. Penso che è il momento giusto di arrivare a una squadra importante, una fra i club più importanti al mondo, quindi per me lo posso dire, ormai lo sanno tutti, è un sogno arrivare qua. Da piccolo ho sempre fatto il tifo per l'Inter, quindi dopo va bene, i ragazzi sono tutti bravi ragazzi, dentro non solo i compagni sino la gente che lavora dentro del club, mi hanno fatto sentire come a casa, come che da tanti anni che ero qua dentro. Ma che meraviglia, tutti i tifosi dell'Inter che tornano a casa. Poi vi faccio sentire anche come è iniziato il tifo di Gargano per l'Inter. Ma questo dopo, perché c'è Alessandro da Treviso in linea, poi Giancarlo da Cremona che sentiremo dopo la borsa. Alessandro. Sì, eccoci, buongiorno. Buongiorno. E complimenti. Una proposta veloce e breve. 5 cambi al posto di 3, sì, e 2 da fare nell'intervallo. Questo permetterebbe di avere la possibilità di utilizzare, cioè, maggiormente i giovani. Cioè 2 obbligatori? No, 5 cambi invece dei 3 possibili. Sì, di cui 2... Due si possono fare esclusivamente tra il primo e il secondo tempo, di modo che non si blocca il gioco. Avremo modo di utilizzare di più i giovani perché avremo più spazio, e avremo modo sicuramente di far riposare di più i top player per gli eventi sportivi maggiori. No, caro ascoltatore, autore di un SMS anonimo, il tifo di Gargano non è cominciato con Pančev per l'Inter, non è cominciato con Pančev e Vampeta, ma così. Il tifo per l'Inter è cominciato da piccolo giocando alla PlayStation. Ci stavano grandi calciatori, quindi in quel momento c'era la Juventus pure in grande forma, però sceglievo sempre l'Inter. Parlavo con un amico che giocavamo sempre insieme da piccolo, che facevamo sempre quella partita, quindi adesso sono qua dentro e spero di giocare tanti anni insieme ai compagni che sono qua. Beh, fate due conti, magari Pančev c'era quando era piccolino Gargano. Comunque, Giancarlo da Cremona, dica. Sì, buongiorno dottor Genta, a lei e agli ascoltatori. Scusi, una domanda, perché vorrei capire bene, anche se non sono più giovanissimo e sono da tanti anni nel mondo dello sport, può spiegare bene esattamente cosa significa clausola di rescissione? Perché in teoria la clausola di rescissione dovrebbe essere il valore aggiunto al prezzo, tra virgolette, del giocatore, cosa che adesso non si dice più e nemmeno i suoi colleghi fanno a livello di informazione. Sì. E quindi ha ragione assolutamente il presidente del Bilbao che dice 37 più 30, non 37 e stop, 37 li deve sborsare il giocatore, poi vabbè glieli metterà in mano la squadra dove andrà, ma c'è anche il valore del giocatore, perché mi sembra che si stia facendo un po' di confusione. Quindi, e questa è la prima cosa, poi la lascio subito agli ascoltatori. Esiste ancora quella benedetta norma che vieta di contattare i giocatori sotto contratto? Grazie, ascolto lei. Grazie a lei, domande tecniche. La norma che vieta di trattare giocatori sotto contratto in un mondo in cui tutto è in vendita e i mercati non chiudono mai mi sembra obsoleta, se esiste ancora, comunque passata ai posteri. La clausola di rescissione è quella fissata sul contratto di comune accordo per prelevare un giocatore appunto sotto contratto. Filippo Maria Ricci dalla Spagna, giusto appunto. Buon pomeriggio, però io la domanda che si è fatta l'ascoltatore me la sono fatta ieri, sì, mentre ascoltavo Luka Modric che mi diceva sì, a maggio sono stato contattato dal Real Madrid. La stessa domanda me la sono fatta, che sarà anche obsoleto, però se teoricamente se c'è la regola andrebbe rispettata, poi dopo sì. poi magari la togliamo. Sono d'accordo con te che è un po' difficile da mantenere. Un po' difficile da mantenere, Filippo. Quei sì. campionati che cominciano a mercati ancora aperti, questa la trovo una follia certo, assoluta. Questa è una delle cose giuste che ha detto Mourinho in questa settimana. Ha detto: non è, mi sembra assurdo che il mercato sia aperto quando abbiamo già cominciato la stagione. Insomma, lì ha ragione lui, perché vuol dire. Cosa ci vuole? Cominciare 10 giorni prima, 20 giorni prima e farlo finire il 10 agosto, l'8. Certo. Mi sembra di dire questo 31 agosto molto, molto da sorpasso, no? Molto da film anni 60. Finisce il 31 agosto, ormai l'estate non si sa più quando è, com'è, no? Perché dobbiamo mantenere questa data così, un po' no? Come il 25 dicembre, sì. così, simbolica. Qui in Italia alle ore 19, non so in Spagna. Sai che non lo so, te lo dico sinceramente, però insomma, in Inghilterra so che è un po' più tardi, insomma dipende anche lì, ognuno fa un po' come gli pare. Sì, no? Ognuno fa come gli pare e resta una pagliacciata comunque quella di far chiudere il mercato quando la palla già corre. Tu dicevi una delle cose giuste che ha detto Mourinho in settimana, le altre quali? Ha fatto una buona disamina, alias, serie di scudisciate ai suoi giocatori dopo la sconfitta col Getafe, che secondo me ha preso di sorpresa molti, ma quasi non lui, non so come dire, aveva una faccia a parte molto arrabbiata, ma in generale mi è piaciuta la sua conferenza stampa, non è venuto lì a cercare scuse, a parlare dell'eventuale mano del giocatore del Getafe nel secondo gol, no, è andato dritto al punto e ha espresso una serie di critiche molto dure sui suoi giocatori, che non lo so, a me sembrano un po' forse appagati, forse distratti. Insomma, comunque ti ritrovi dopo due giornate a meno 5 dal Barcellona in un campionato così decisamente chiuso, nel senso che sono due le squadre che lottano per il titolo, bisogna vedere. E poi domani abbiamo l'ennesimo classico, ritorno alla Supercoppa, che non vale niente questo trofeo, però se le cose vanno male per il Real Madrid, insomma, comincia a valere, perché poi sarebbero tre partite della stagione senza vittorie. Insomma, per una squadra come Real Madrid e un allenatore come Mourinho comincia a essere, sono grandi numeri. Certo, ci si è messo anche il fiscalista a chiudere la porta al povero Kakà. Povero no, comunque, povero no. No, allora, povero no, povero perché è un po' triste, no? Lo vedi in faccia e sembra un po' triste. Insomma, poi voglio dire, come può essere triste uno che comunque ha una bella moglie, due figli e 9 milioni di stipendi netti all'anno più la pubblicità. Però insomma, io non ho mai creduto a questo affare, proprio per una questione economica. Sì, Kakà faceva del bene, dava dei soldi alla Chiesa, però perché deve poi regalare dei soldi al Milan o al Real Madrid? Quindi che fa? Sta lì a lucidare le panchine? Ecco, questa è la cosa, perché Mourinho è stato durissimo con lui. Mourinho non lo può vedere, perché ovviamente tenere in panchina o in tribuna, come è stato per queste prime partite, un giocatore come Kakà, ex pallone d'oro e soprattutto, ripetiamo, un uomo con un ingaggio da 9 milioni di euro netti, è molto complicato. E Mourinho, secondo me, il Milan lui non l'ha mai visto bene. Questo è un terreno, come si può dire, un po' viscido. Però Mourinho voleva che sto ragazzo se ne andasse o in America o in Brasile. Sì. Come dire, fuori dalle scatole, non sia mai che risorge e fa ripartire, no, questo Milan un po' scassato, sì. Lo rimette in ordine e lo fa ripartire. Difficile. Questo è un rischio che Mourinho non voleva correre. Sì. Comunque, detto questo, adesso le prospettive sono molto relative. Sì, cioè, probabilmente appunto resta l'America o il Brasile. Io dico anche lì, anche Riccardino, se lo vedessi, no, gli direi: ma dico, in Brasile, avete visto l'altro giorno il gol di Ronaldinho, l'altro ieri? Ti consiglio a tutti gli ascoltatori di andarsi a vedere il gol di Ronaldinho nel derby tra Atletico Mineiro e Cruzeiro, un gol spettacolare di un Ronaldinho tornato, quello che No, ma era certo, il ma calcio brasiliano è in crescita, esatto. Sta aspettando i mondiali, molti tornano in patria. Poi ne parlavamo anche ieri qui, cioè se Kakà ha ancora il sogno di inseguire la nazionale, è lì che dovrebbe andare a giocare. Esatto, forse lì è meno triste, non lo so. Però è chiaro che forse è schiavo anche di questo suo contratto, perché rinunciare, è chiaro che non penso che nessuna squadra in Brasile possa dargli i soldi che gli dà Real Madrid. E soprattutto poi c'è anche un altro problema, che il Madrid l'ha pagato 67 milioni di euro, e quella cifra lì non è che l'ha data a una squadra X, l'ha data al Milan. Certo. Allora come fa adesso a dire va bene, no? Al Milan dice vabbè, adesso non solo ti ho dato 67 milioni, adesso ti do il giocatore gratis o in prestito, ti pago metà dell'ingaggio. È tutto molto molto complicato, al di là dei buoni rapporti o ottimi rapporti. Un'ultima cosa, Filippo, vai. Un'ultima cosa, secondo me Llorente, 36 milioni di euro sono un sacco di soldi, secondo me non è un giocatore che è in grado di farti fare il salto di qualità, mi riferisco alla Juventus, intanto Bielsa però lo tiene fuori e ne becca 4 dall'Atletico di Falcao che ne fa 3. Allora, sono varie cose qui, andiamo rapidamente. L'Atletic ha beccato 9 gol in 2 partite, no? 5 dal Betis e 4 dall'Atletico. La situazione è disastrosa. L'altro giorno Bielsa ha litigato con un giornalista, insomma, in maniera per me anche molto divertente, molto educata come lui, un grandissimo, però vabbè, questo non usciamo dal seminato. Llorente è chiaro che non vale 36 milioni, ma non li vale perché l'anno prossimo ce l'hai gratis. Quindi massimo ne può valere 20. Per me invece Llorente è il giocatore che può far fare la differenza. Questo non so se questa nostra disputa potrà mai arrivare, diciamo, sul campo e quindi misurarci sul campo, perché non so se io pensavo che alla fine ce la facessero a prenderlo, però adesso ho qualche dubbio. Però spero in cuor mio che riesca a venire, perché per me Llorente è invece un giocatore che può far fare la differenza. Finora ha giocato in una squadra tra virgolette piccola, comunque molto particolare. È il momento per lui di andare a misurarsi così. Io lo vedevo bene, poi se arriva lo vedremo, se no ognuno si tiene il suo pensiero e vediamo se Bielsa lo fa giocare. Grazie Phil, alla prossima. A voi, ciao. Grazie a Filippo Maria Ricci, corrispondente da Madrid per la Gazzetta. Moreno da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io sarà ancora, perché non sono in prima campionato, volevo farle una domanda semplice. Eccolo, sto guardando il gol di Ronaldinho, cui faceva riferimento Filippo Maria Ricci. Lei l'ha visto? Come? No, stavo guardando il gol di Ronaldinho, cui faceva riferimento Filippo Maria Ricci in questo momento. Grandissimo gol, partendo da metà campo, ne semina 3 o 4 come faceva Ronaldinho, quello vero, pianta sul posto l'ultimo difensore e la incrocia sull'altro palo. Grande gol. Dica. No, non l'ho visto. Peccato. Dica. Le volevo chiedere, siccome ancora diciamo, sono in prima campionato, riferita ai giudici di linea, come mai non sono dalla parte opposta di dove è il segnaline? Cioè, io è una cosa che non so, ma comunque se è già stata spiegata da questo, non lo so. Più che altro è una domanda per capire più o meno, così almeno riuscivano a coprire anche la parte della porta, diciamo, opposta a quella dove è il segnalino. Tecnicamente non glielo so spiegare, però nei prossimi giorni magari chiamiamo un arbitro e dirimiamo ogni controversia relativa a questo famoso giudice di linea, di porta, di area di rigore, come lo si voglia chiamare. Secondo me è comunque, a prescindere da quello, è comunque dai movimenti che deve fare, è comunque utile. Sì, senza dubbio. Visto, ma il discorso di domenica del secondo gol della Juve, se fosse successo dall'altra parte con il portiere che copriva la palla, penso che nessuno l'avrebbe visto. E si sarebbe tornati sempre al discorso della telecamera, quello e quell'altro, insomma, tanto per le prometto che ci faremo spiegare vita, morte, miracoli dei movimenti e dei compiti precisi e anche il nome del giudice di linea, di porto, di area di rigore. Traffico poi, Andrea, e no? Petto col traffico, allora Andrea, provincia di Monza. Pronto? Senta, buongiorno. Io volevo parlare dell'Udinese, visto che ci sono pochissime possibilità di poterlo fare normalmente, ne approfitto per questo preliminare. mi auguro che passi da tifoso, chiaramente, e spero che, nonostante l'indifferenza generale... Perché indifferenza generale? Bah, perché lo vedo un po' bistrattata come squadra, nel senso che, nonostante i grandissimi risultati, un quarto posto, un terzo posto, capocannoniere due volte Totò di Natale, grandi giocatori ceduti che giocano in grandissime squadre, eccetera, non se ne parla, secondo me, mai abbastanza, ma anche per una tipologia di modello imprenditoriale vincente. No, ma io penso che se ne parli anche piuttosto spesso, e è assolutamente ragione. Comunque, come ho detto prima, l'Udinese meriterebbe, insomma, meriterebbe questo palcoscenico, se non altro per la sua storia recente, e anche per queste ragioni, per la capacità di gestire il calcio in maniera molto moderna. Eccoci a Rocco da Napoli. Buonasera. Buonasera. Anche qui polemiche sul filo, con la Juventus? No, io volevo dare il mio contributo per quanto riguarda la partita di stasera. Ah, certo, molto meglio, bravo. Il tifoso del Napoli, come si sente? Sì. Però io, essendo sportivo, volevo fare gli auguri all'Udinese. In bocca al lupo. E sicuramente a questo turno. Perché anche per l'allenatore Guidolin, che è un signore, come l'allenatore, certo. Tra gli auguri e il sicuramente, io vedo tutta Udine che sta facendo scongiuri pazzeschi. No, mi auguro, domani l'in bocca al lupo all'Udinese lo facciamo tutti, anche perché penso che, insomma, possa essere, anzi sia la squadra più trasversale che c'è, gioca uno splendido calcio, ha fatto magnifici campionati, ripeto, ha un modo molto, molto moderno di gestire il calcio, ed è l'unico in Italia così, con regole molto chiare, molto precise. Si scautizzano i campionati, si prendono giovani emergenti di qualunque paese, li si valorizzano e poi si cedono al miglior offerente senza fare troppi sconti. E ripeto, credo che i prossimi in rampa di lancio siano, per la prossima stagione, Armero e Benatia. Maurizio, provincia di Genova. Buongiorno. Volevo fare una domanda. La Juventus ha mai pensato a Drogba? Perché secondo me è l'unico calciatore che poteva essere accessibile, due anni glieli faceva tranquillamente, e in avanti si è visto cosa ha fatto in Champions, reggendo la squadra da solo, perché l'ha retta da solo, e si integrava benissimo con gli schemi di Conte, perché dà l'anima sino alla fine. Non adesso so se la Juventus sembra che vada via, perché non gli pagano gli stipendi. Non so se la Juventus avesse pensato a Drogba. Resta comunque un grande giocatore che costa molto di ingaggio da in là con gli anni. Però dal punto di vista delle capacità e delle qualità che lei ha sottolineato in maniera molto precisa, non si discute. Quindi è così. Ma la sensazione è che la Juventus volesse investire su un giocatore un po' più giovane, nemmeno Van Persie è più giovanissimo, però la sensazione è che volesse investire su un giocatore un po' più con un po' più di futuro rispetto a Drogba. Prima di Francesco da Ravenna, io saluto e ringrazio Walter Fuochi, penna illustre di Repubblica, perché vorrei fare due chiacchiere di basket, perché sennò sul calcio un'ora di calcio mi annoia un po', lo confesso. Ciao Walter. Ciao, buongiorno a tutti. Nel silenzio abbiamo una nazionale che funziona dopo tanto tempo. Sì, funziona contro avversarie non di primissimo livello, ma sono le stesse avversarie con cui l'anno scorso non funzionava. L'anno precedente non funzionava, quindi tocca accontentarsi e nel frattempo dare per pressoché acquisita almeno la partecipazione ai prossimi europei in Slovenia, così vicino a casa, così comodi per tutti, ci saremo. Una cosa curiosa è che questa nazionale era partita con molti giocatori orfanelli, no? Senza contratto, eccetera. Poi strada facendo adesso l'hanno trovato tutti. Tutti tranne Mancinelli, sul quale ho qualche sospetto che ritorni alla città dove l'hanno cresciuto, la perplessità del giocatore di andare a abitare nella sponda opposta, Bologna, dove anche molti tifosi sono piuttosto altrettanto perplessi, ma mi sembra un epilogo possibile. Certamente Claudio Sabatini sta coltivando questo colpo da tempo. Non mi stupirebbe un Mancinelli vestito di Virtus, a meno che non voglia andare all'estero, ma ragiono sul fatto che se avesse accettato questa soluzione l'avrebbe già fatto. Intanto abbiamo scoperto in azzurro un datome determinante, come qualche volta, non sempre, abbiamo visto in campionato. Sì, Datome è un giocatore che in passato faceva bene 2 partite su 10, adesso è salito a 5, 6, 7, 8. E Datome quando la fa bene, la fa molto bene, quindi è un giocatore che il giorno che diventasse affidabile nel segno della continuità sarebbe un giocatore di grande livello, perché il tiro ce l'ha, su quello non ci piove. Poi c'erano dei passaggi a vuoto, io ricordo anche delle partite, 20 punti nel primo tempo, 0 nel secondo, assolutamente inspiegabili. Se lui dispiega questo talento su un arco di tempo, su un arco di partite più sostanzioso, è certamente un giocatore di grande prospettiva, ma anche di grande presente. Senti Walter, ti chiedo ancora questo fuori dall'azzurro, gli equilibri del campionato sono davvero cambiati? È chiaro che ci sono molti roster da completare, eccetera eccetera, però sono davvero cambiati gli equilibri del campionato, con Milano che si autoproclama favorita e Minucci che ovviamente lascia volentieri la scena e il peso del pronostico a Milano. È così tanto favorita Milano? Sì, è favorita, ma Minucci se la gode a giocarsi una stagione da sfidante, perché è quello che aspetta da tantissime stagioni, detto che quando governava, vinceva e stradominava se la passava altrettanto. Però il prossimo campionato credo somiglierà a una corsa automobilistica, la macchina in testa che è Siena è incalzata subito dietro, il sorpasso sembra inevitabile e tutti aspettano solo di vedere quando avverrà questo sorpasso. C'è però da fare una considerazione: Siena ha accumulato un tale capitale che anche dopo l'accessione di una squadra intera sarà difficile darla per finita, perché quel capitale c'è stato e qualche residuo rimarrà abbastanza lungo. Hanno rinnovato la squadra, hanno puntato su giocatori interessanti, nulla sarà più come prima, però prima di dare per battuta Siena, prima di darla per sorpassata, bisognerà andarci molto piano. Sì. Sì. Un'ultima cosa, riuscirà Petrucci a rimettere in ordine dentro la baracca del basket? Ma sai, e non uso la parola baracca a caso. Sì, beh, c'è molto caos all'orizzonte, però l'unico sistema pare quello della spending review, peraltro già adottato dal calcio. Se torna indietro il Milan, potrà tornare indietro anche qualche società di basket, far giocare i giovani, vedere cosa c'è. Anche questa nazionale ha detto che se andiamo a guardare bene, qualcuno poi che sa giocare a pallacanestro c'è. Forse dall'umiltà rinascerà qualcosa di utile e di interessante. E Petrucci è un politico molto navigato per saper stare anche in queste situazioni di crisi o di apparente crisi. Io credo che una rifondazione fatta avendo dei giocatori da far giocare sia senz'altro benefica. Non competiamo più per i massimi livelli continentali, forse avevamo in passato anche una Siena che era sovradimensionata per il territorio nazionale, ma non era abbastanza dimensionata per vincere la Coppa dei Campioni. Facciamo sto benedetto passo indietro e chissà che non vedremo anche noi un campionato più bello, più interessante, più stimolante soprattutto. Grazie Walter. Grazie a voi, arrivederci. Grazie davvero Walter Fuochi. Intanto si vede che l'ascoltatore di prima aveva dato un'occhiata al sito della Gazzetta, perché apre con questa notizia di Drogba che sta per lasciare insieme a Daniel Ka il calcio cinese, lo Shanghai Shenhua, perché i quattrini promessi pare tanti non arrivino. E c'è questa domanda: la Juve ci ripensa? questo è l'interrogativo di oggi. Francesco da Ravenna, la Juve ci ripensa? Io spero di sì, perché se dobbiamo prendere Llorente o l'altro giocatore dello Sporting di Lisbona, mi sembra non mi sembra prendiamo un giocatore tanto più forte di Matri da dover investire questi soldi. Questa era la mia domanda, che poi lei ha anticipato leggendo questa notizia. E soprattutto, da tifoso juventino e da estimatore di Marotta, io non mi spiego l'acquisto di Lusso. Io questo non riesco a spiegarmelo. Questo siamo già in due, perché l'acquisto di Lusso l'avrei evitato a chi. Prendere Lusso. Oltretutto, visto l'esordio di domenica di Marrone, che invece certo, finalmente c'è un altro prodotto del settore giovanile della Juve, tanto decantato, ma dove che tra l'altro è un centrocampista naturale, che si sta inventando difensore centrale. Questo certamente depone a favore della sua versatilità. L'acquisto di Lusso non lo capisco neanche io. Per me è e resta ed è sempre stato un giocatore molto sopravvalutato, e comunque mi pare che la coppia centrale della Juventus dell'anno scorso, che è rimasta quest'anno complice grazie a Bonucci, non fosse il primo dei problemi, ecco, anzi forse l'ultimo, visto che la difesa della Juventus è stata la meno battuta nella scorsa stagione. Lusso però starà fuori adesso un mese e mezzo, due, e magari, volendo essere un po' maliziosi, non tutto il male, povero Lusso, viene per nuocere, perché Conte così non avrà da dietro il vetro oscurato grossi dubbi nei grossi problemi sullo scegliere coppie difensive più adatte. Mauro da Treviso. Buongiorno dottor Genta, complimenti. Buongiorno. Per la trasmissione. Grazie. Io la chiamavo non per il calcio ma per il basket, sono di Treviso e niente, volevo chiedere a lei se mi poteva aiutare a capire come mai poi Treviso, cosa sia accaduto, come mai abbiamo perso la Serie A, diciamo, la di basket, come mai siamo usciti da tutto, non siamo riusciti a rimanere... Perché le pratiche non sono state fatte nei tempi previsti, e dunque Treviso è stato estromesso. Lo dico in due semplici e sbrigative parole, perché stiamo per chiudere il programma, e ringrazio Cristian Goldoni e Carmelo Lauricella.